24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Pronti, cuochi, via! Adesso vedrai quello che c'è dentro, eh. 4 uova intere e 4 rosse, 75 grammi di burro e 2 cucchiai d'olio, 250 grammi di latte, 750 grammi di farina doppia, 200 grammi di grana grattugiata, 125 grammi di pecorino grattugiato, 125 grammi di lievito di birra. Anche poco mio, fai assaggiare un pezzettino. Uno non può pensare bene, amare bene e dormire bene se non ha mangiato bene. Radicchio, filetto di trota affumicata. Esatto, esatto. Suprema di agrumi, pelarti a vivo. Ah, ma che gustino questa roba qua! Bello, è caldo. Ma questo è un piatto che cucini spesso? Com'è? Un po' salato. Com'è? Salato. Come? Salato. Salatissimo. Abbiamo affettato la cipolla, ci abbiamo aggiunto la salsiccia spezzettata, i funghi strizzati, abbiamo unito la passata e abbiamo completato con tanto parmigiano. Che roba golosa! Lo spreco mondiale di cibo è di 1,3 miliardi di tonnellate all'anno, che equivale a circa un terzo del cibo prodotto per il consumo umano sempre in un anno. Per fare un esempio, con il cibo sprecato nell'arco di 365 giorni si potrebbero sfamare 300 milioni di persone in Africa e 200 milioni in Europa. I più spreconi sono gli americani e subito dopo ci siamo noi europei, che buttiamo 280 kg di cibo a testa ogni anno. Ma nella spazzatura non finiscono solo gli alimenti, anche i nostri soldi. Infatti in Italia il valore del cibo buttato ammonta a 300 miliardi di euro in un anno. Sui nostri campi rimangono 1,2 milioni di tonnellate di derrate alimentari, mentre l'industria alimentare scarta 2 milioni di tonnellate di cibo che potrebbe essere recuperato, sempre nell'arco di un anno. Andrea Segre è professore ordinario di politica agraria internazionale comparata all'Università di Bologna e fondatore e presidente del Last Minute Market per la prevenzione e il recupero degli sprechi alimentari. Il 10 marzo è uscito per Einaudi il suo nuovo saggio L'oro nel piatto. Ecco, professor Segre, l'oro nel piatto cos'è? Quando noi sprechiamo il cibo vuol dire che non gli diamo più valore, non ci rendiamo conto che invece il cibo è oro, perché un valore porta dei valori, non soltanto per la nostra nutrizione, abbiamo bisogno di mangiare possibilmente bene per vivere, ma perché dentro il cibo c'è l'economia, c'è la natura. Naturalmente. Noi ci siamo sentiti l'anno scorso, professor Segre, in un anno gli sprechi alimentari nel nostro pianeta sono aumentati o diminuiti? Sono aumentati anche perché abbiamo imparato a contabilizzarli un po' meglio. Sono un po' diminuiti in realtà perché la crisi, forse l'unico aspetto positivo, ci fa stare un po' più attenti. Ecco, ma dove si spreca di più? Cioè, quali sono i luoghi dello spreco? Nell'economia cosiddetta sviluppata, sviluppata è a casa nostra, è lo spreco domestico che la fa da padrone. Il resto si può migliorare, la filiera agroalimentare, la produzione agricola, è una questione di efficienza, ma il comportamento è quello che di noi consumatori è quello che determina di più tutto. Sì. Professor Segre, ma produrre male significa consumare male? Assolutamente sì, perché una produzione agricola poco sostenibile, molto impattante dal punto di vista ambientale, poi porta anche a del cibo che non ci fa bene, quindi produzione e consumo sono assolutamente legati. Ecco, professor Segre, secondo quanto emerge dal vostro osservatorio permanente, il 63% degli italiani in realtà urla, è disponibile, diciamo, pensa non sprecare. L'ha un po' già detto, gli italiani adesso sono più attenti agli sprechi dopo la crisi? Sono più attenti, però chiedono, e questo è molto importante, di fare educazione alimentare. Una volta si chiamava economia domestica, tanti anni fa, è una disciplina, una materia che ci siamo persi nelle varie riforme scolastiche. Adesso dobbiamo reintrodurre l'educazione alimentare per capire cos'è il cibo e quanto ci può fare bene. Ecco, l'Expo potrebbe aiutare in questa direzione, una coscienza, speriamo almeno, insomma, che possa dare una mano. Ecco, ma qual è la perdita economica di una famiglia a causa degli sprechi? ma in realtà pochi euro al giorno, solo che se sommati per il numero di famiglie e di giorni, alla fine è mezzo punto di PIL, è oltre 8 miliardi di euro, che tanto, quindi, poi tanto. È soltanto il valore. Se noi poi andiamo a calcolare i pezzi di natura che sprechiamo, e cioè il suolo agricolo, l'acqua, l'energia, ovviamente il valore è molto molto più alto. Quello è un impatto ambientale per famiglia molto alto, insomma. Certo. Calcolato così. Ecco, le nuove tecnologie naturalmente possono aiutare a cambiare i cattivi comportamenti quotidiani. Ascoltiamo Francesco Ardito, che ha inventato Last Minute sotto casa. L'ha intervistato Sara Tardelli. Francesco, a che cosa serve? Ma Last Minute sotto casa serve a tutti i piccoli negozianti di quartiere, le botteghe che vendono alimentari, che si trovano spesso nella situazione, in prossimità dell'orario di chiusura, ad avere dei prodotti appunto alimentari che rischiano di essere buttati: il girarrosto con 3-4 polli, la pizzeria, la panetteria con dei pezzi di pizza, il verduriere con delle banane comincia a diventare marroni. Quindi ogni qualvolta un piccolo negoziante si renda conto di avere un prodotto che per lui è stato un costo, iscrivendosi alla Smini sotto casa e inserendo semplicemente, con grande semplicità, un messaggio con scritto «Ho ancora 6 pezzi di pizza, venitele a prendere e ve li metto al 50%. Anche i consumatori possono usare Last Minute sotto casa? I consumatori che si registrano indicano dove abitano, quindi possono inserire anche più di una location, e a che distanza da casa loro vogliono ricevere le offerte per ogni categoria di prodotto, quindi macellerie, gelaterie e via discorrendo, tutto, verdurieri. Nel momento in cui il negoziante invia questo messaggio, diciamo, di allerta, perché dice sto per buttare via un prodotto, venitelo a prendere, ve lo sconto, ecco che il cliente che è a due passi riceve il messaggio in tempo reale sullo smartphone e può andare a prendere quel prodotto. E vede una specie di mappa che gli indica c'è anche la mappa che indica dove si trova il negozio su Google Maps, e come diciamo sempre vince il negoziante che incassa qualcosa che probabilmente non avrebbe incassato e vede entrare volti nuovi in negozio. Questo è il punto più importante: vince il cliente che compra un prodotto assolutamente fresco a due passi da casa a metà prezzo o anche di più, ma soprattutto vince il pianeta. A Torino adesso abbiamo più di una tonnellata ogni mese che non viene gettata via grazie alla smenza sotto casa. Voi siete partiti da un quartiere di Torino, il vostro servizio adesso copre tutta Italia. Tutta Italia? Sì, siamo in tutta Italia, siamo già più di 25.000 persone registrate che usano sistematicamente il prodotto. Professor Segre, ecco, dal suo osservatorio, lei sta seguendo, immagino, nascita di iniziative come questo, le piacciono? Sì, ma me ne propongono una al giorno, perché ormai lo sviluppo di tecnologie, di app, questa è, diciamo, furba, perché in realtà permette di vendere, diciamo, a un prezzo scontato, quindi ha anche un risvolto economico importante. Ecco, e il vero problema è l'uso di queste tecnologie, che ancora ovviamente non sono così diffuse. Naturalmente. Ma si stanno diffondendo. Però ascoltiamo un'altra storia, quella di Marco Porcaro, che è fondatore di Cortiglia, una rete di agricoltori e consumatori. Come funziona esattamente Cortiglia? Cortiglia è un mercato agricolo online che permette a tutti noi, alle famiglie, di fare la spesa direttamente in campagna, quindi comodamente dal proprio divano si possono ordinare frutta, verdura, formaggi, carne, vino, direttamente da chi li produce, direttamente dal produttore agricolo. Cortiglia si occupa quindi di raccogliere gli ordini, raccogliere i pagamenti, girare gli ordini ai produttori agricoli e far arrivare la spesa fisicamente tutte le settimane a spesa a domicilio a casa del consumatore. Quindi fate incontrare la domanda con l'offerta. Esattamente. Come vi si contatta? La cosa più banale nel mondo nel 2015, www.cortiglia.it. Iscriversi sulla piattaforma, entrare all'interno del mercato e selezionare se si vuole ricevere un box in abbonamento di frutta e verdura oppure fare una spesa singola, aggiungendo a piacere comunque in ogni momento i prodotti di stagione. E quanti agricoltori raggruppate oggi dentro Cortiglia? Siamo arrivati ad avere oltre 40 aziende agricole che vendono settimanalmente i loro prodotti attraverso la piattaforma in base alla propria stagionalità. E quante persone, quanti utenti invece avete registrati sul vostro sito? Sul nostro sito siamo arrivati ad avere oltre 70.000 utenti iscritti. Però voi operate, diciamo, nella zona di riferimento, giusto? Quindi non in tutta Italia. No, infatti siamo locali, ma stiamo lavorando per diventare nazionali. In questo momento il servizio è disponibile a Milano, Varese, Como, Monza, Novara, Pavia, Lodi. Quindi con un click ci si trova la spesa fuori dalla porta? Esattamente, con un click e tantissima attenzione alla stagionalità e alla qualità dei prodotti. Ecco, professor Segre, accorciare la filiera come fa Cortiglia riduce lo spreco, però danneggia i negozianti. È inevitabile? È la strada comunque obbligata? No, sono forme complementari, non è che potremmo poi vendere tutto online. La filiera corta diciamo premia la localizzazione, forse inquina di meno, ma dipende poi quanti passaggi. Cioè chilometro zero, insomma. Sì, però ecco, magari dal punto di vista ambientale è più conveniente prendersi un tir di pesche dalla Spagna, non facciamolo, è solo un esempio. Quindi bisogna essere molto laici in questo, andare soltanto in una direzione. Ecco, il fatto però che a monte, lo ripeto, bisogna che ci sia educazione alimentare. Naturalmente. Non bastano queste forme, sapere certo, come si legge un'etichetta, per esempio. Professor Segre, però questa sorta di mercato online aiuta i consumatori ad avere un rapporto anche più consapevole col cibo in qualche modo, oltre che più economico. Sì, è una forma appunto, diciamo, di distribuzione moderna che va oltre, per dire, quella che si chiamava una volta distribuzione moderna, la grande distribuzione. Ripeto, deve essere complementare. Molto spesso fa anche bene andare a un mercato della terra, un mercato contadino, come si dice, a parlare con il produttore invece di avere un dialogo via internet. Certo. Senta, professor Segre, nutrire il pianeta, il tema scelto per l'Expo 2015, quindi dare valore al cibo, ristabilire l'importanza della sua qualità, ci porterebbe forse a riscoprire e a riapprezzare anche la nostra identità umana e sociale in qualche modo, no? Ma io credo di sì, è una grande sfida, il tema è fantastico, da un certo punto di vista faremo una grande abbuffata di temi legati al cibo, perché guarderemo l'agricoltura nel mondo. Ecco, se questo servisse all'Italia, al nostro paese, a valorizzare questo settore anche dal punto di vista commerciale e dell'educazione, come dicevo prima, sarà un successo. Quindi cultura del cibo, cultura del non spreco, in qualche modo vanno di pari passo? No, quella del non spreco viene prima, è come se fosse un comandamento laico, primo non sprecare, poi sì. Adesso che l'ha detto il Papa è diventato perfetto. Comandamento. Bisogna iniziare da qui. 800 24 0024, numero verde, 349-238-6666, l'SMS. Livia Pomodoro, presidente del Tribunale di Milano, protagonista della vita culturale della sua città, come presidente dello spazio teatro Nomad, sempre a Milano, oggi ha promosso una nuova avventura, quella di custodire e sviluppare con un gruppo di esperti quella che sarà l'eredità di Expo 2015. Intanto, presidente Pomodoro, è tranquilla per l'Expo 2015? Ma guardi, io non appartengo al gruppo dei dirigenti che in questi giorni tremano per per l'apertura di Expo. Sì, ma che dato che deve prendere l'eredità... E spero per loro che ce la facciano. Ma speriamo. Vabbè, lei presiede il comitato di documentazione e studio in materia alimentare, che sarà un'eredità materiale del dopo Expo. Speriamo che vada tutto bene. Cioè, esattamente, eredità materiale cosa vuol dire? L'eredità immateriale è appunto questa proposta, diciamo così, anche ieri ne parlavo col segretario generale del BIE, è una proposta, un piano d'azione, chiamiamolo così, che dovrà prendere il via subito dopo, quando finisce l'Expo. Sì, ma comunque è già cominciato ovviamente, ma dovrà essere un modo per aggregare quanti più consensi è possibile intorno ad una ipotesi di costruzione di un decalogo serio, corretto, che può arrivare fino ad una convenzione multilaterale delle Nazioni Unite sulle regole minime che possono governare il diritto al cibo, meglio, il diritto all'accesso al cibo e il diritto al cibo garantito. E quindi voi concretamente farete questo decalogo? Noi concretamente, con tutte le nazioni con cui avremo contatti, cercheremo di arrivare a questo decalogo. Si tratta di un lavoro in progress molto importante. Certo, una sorta di, come dire, convenzione di Kyoto dell'ambiente invece sull'alimentare. Bravissimo, ma questo non potrà accadere alla fine di Expo. Alla fine di Expo noi prendiamo il testimone di questa eredità e faremo in modo che nei prossimi anni, e io spero prima di Dubai 2020, si possa avere una convenzione di questo tipo che possa essere firmata a Milano. L'ambizione di tutti noi è che Milano diventi la capitale mondiale dell'alimentazione. Dell'alimentazione intesa come pensiero per l'alimentazione di tutti, in questo senso? Come pensiero. pensiero per l'alimentazione di tutti, ma anche come attività concreta che possa essere sviluppata in implementazione in tutti i paesi che crederanno in questa iniziativa. Senta, però, in un paese in cui esiste ancora il caporalato, vi occuperete anche di questo? Ah, il caporalato non è che un aspetto dei tanti terribili. Pensi alla prensione violenta o non violenta delle terre che tolgono il sistema di produzione agricolo fondamentale per le popolazioni autoctone. Certo. È un problema grandissimo, così come un problema grandissimo è quello della sicurezza alimentare che valga per tutti e che non sia soltanto un privilegio per il mondo occidentale, così come i problemi dello spreco alimentare su cui bisognerà lavorare moltissimo, perché noi siamo molto responsabili e molto debitori nei confronti del resto del pianeta. Va bene, quindi è un impegno molto molto serio che dovrebbe arrivare a suo compimento a Tokyo 2020. La vedremo, io spero proprio di sì. A Dubai 2020 ci sarà questa Expo sulla tecnologia, innovazione e logistica. Perché non piegarla a tentare di nutrire subito meglio e bene il pianeta? Continua con Sara Tardelli il nostro viaggio in Italia. Mille speranze, mille vite, mille sogni, mille destini, quando si incontrano fanno scintille fuori dei riflettori. Stretto dentro al cuore, che la politica sia ancora un'occasione. Tra le pieghe di un'Italia che arranca ci sono i nuovi mille, un esercito di persone che risalgono la corrente della crisi e cercano con il loro lavoro di dare un contributo positivo per cambiare in meglio questo paese. Chiara Bertolaso, 30 anni, romana, pediatra. Chiara, adesso sei in Africa, ma dove esattamente? Allora, mi trovo a Itigi, che è a 2 ore dalla capitale amministrativa della Tanzania, cioè Dodoma, nella Tanzania centrale. Perché sei andata lì a fare la pediatra? Allora, io in realtà appunto non è la prima volta che faccio un'esperienza in un paese del terzo mondo. Durante gli anni di studio sono stata in Etiopia, ho avuto un primo impatto appunto con quella che è la medicina proprio nei paesi del terzo mondo, per cui ho voluto riprovare una volta formata come medico e come pediatra. E qual è l'impatto? L'impatto è fortissimo, di quelli che cambia la vita, nel senso che comunque arrivi in un paese dove le cure mediche sono assolutamente essenziali, cioè ridotte al minimo, per cui di fatto ti trovi ad essere sfruttato, fra virgolette, in senso positivo nel migliore dei modi, cioè puoi mettere, come dire, all'opera tutte quelle che sono le tue conoscenze, tutta quella che è il tuo know-how per cercare appunto di salvare veramente delle vite. È una cosa che fai solo per salvare gli altri o ti dai indietro qualcosa anche professionalmente? Uno quando dice che va a lavorare in Africa magari può pensare che si tratti di una persona estremamente altruista, mentre invece in realtà il ritorno che si ha nel fare queste cose è molto maggiore rispetto a quello che riesce a dare, cioè veramente c'è una gratitudine, una gratificazione sia a livello personale che a livello professionale veramente enorme, che in qualche modo appunto nei paesi occidentali si è persa. Cioè le motivazioni che ti hanno spinto a scegliere di fare questo mestiere lì sembrano più forti? Qui sono ai massimi livelli. La medicina nei paesi del terzo mondo è veramente alla sua massima espressione, cioè semplicemente c'è il medico e c'è il paziente, non ci sono intermediari, non c'è burocrazia, la conoscenza del medico, la clinica, la semeiotica sono gli unici strumenti che uno ha a disposizione effettivamente per salvare delle vite, e in cambio queste persone donano la loro gratitudine eterna, e questo è estremamente gratificante non solo dal punto di vista professionale ma anche veramente dal punto di vista umano. Oltre all'ospedale dove appunto lavori, bisogna però anche spostarsi per portare le cure nei villaggi invece più sperduti, e tu l'hai fatto. Com'è andata? Questo ospedale nel centro della Tanzania ha un bacino di utenza di 1 milione di persone sparse nei villaggetti che afferiscono a questo ospedale, che magari devono camminare per giorni e giorni per arrivare qua ed avere delle cure. È fondamentale avere un tipo di medicina preventiva o comunque un tipo di un sistema ambulatoriale che permetta in qualche modo di visitare questi bambini e di dare le prime cure, vedere come la medicina sul territorio riesce magari ad evitare che si verificano appunto dei casi gravi, critici, che poi esitano nella morte nella maggior parte dei casi, è fondamentale importanza. Tu hai studiato in America e potevi lavorare ovunque, ma poi sei tornata in Italia e farai lo stesso anche adesso. Perché torni in Italia? Perché appunto dopo un'esperienza del genere sono cresciuta sia dal punto di vista professionale ma soprattutto a livello umano, e quindi spero sinceramente di riuscire a convogliare quello che ho imparato anche tornando appunto in Italia, in qualche modo cercare anche di contagiare i miei colleghi con questo entusiasmo che ho ritrovato qui. E invece perché dall'America hai scelto di ritornare in Italia? Hai fatto la cosa al contrario, cioè anziché ripartire sei tornata? Esatto, ed è per lo stesso motivo, è perché avevo trovato un ambiente talmente stimolante ed ero così piena di entusiasmo che di fatto ho sentito la necessità di tornare per contagiare i miei colleghi e per cercare di cambiare qualcosa nel sistema formativo, o quantomeno per quanto riguardava appunto l'atteggiamento dei miei colleghi. Poi insomma riuscirci è un altro discorso, però intanto ci provo. E quindi nelle corsie dell'Umberto I che cosa cambierà nella dottoressa Chiara Bertolaso? Cercherò appunto di mantenere proprio l'entusiasmo e la motivazione che ho ritrovato qua, perché obiettivamente spesso nei paesi occidentali, non solo in Italia, è facile perderlo, perché di fronte alla burocrazia, tutto ciò che bisogna affrontare, obiettivamente uno perde di vista l'obiettivo e lo scopo soprattutto. Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Cristina Bowerman, nata a Cerignola, laureata in giurisprudenza in America, scopre la sua passione, diventare chef. La sua è la tipica famiglia del sud, mamma insegnante di lettere, padre assicuratore. Insieme da 50 anni e tutti d'accordo su un punto: l'amore per il cibo. Adesso ha due ristoranti a Roma, un compagno, un figlio Luca e più di 50 dipendenti. È una delle prime donne italiane a aver ottenuto una stella Michelin. Della sua vita ha scritto un libro, Da Cerignola a San Francisco. Allora, Cristina Bowerman, una delle prime donne ad avere una stella. Che emozione è? Un'emozione grandissima, infinita. Ma... è un riconoscimento dei miei pari. Ma quando ha capito che era fatta? Non è fatta, assolutamente, sono ancora all'inizio. Ah, quante ne vuole di stelle? Ma non è una questione di stelle, è una questione veramente di sapere qual è il proprio limite. Io non sono ancora arrivata a quel limite. Non abbiamo trovato il limite. Ma chi gliel'ha detto che aveva avuto la stella? Me l'hanno comunicato tramite Facebook un giornalista, Paolo Marchi, ma in realtà io non ho guardato quel messaggio per più di un'ora. Soltanto dopo un'ora ho scoperto che avevo ricevuto le congratulazioni. Sì. Senta, ma ha sentito più solidarietà o sorpresa dai colleghi? Sorpresa. Anche perché siamo proprio un ristorante completamente fuori dalla norma, assolutamente non aspettato. Fuori dalla norma in che senso? Beh, perché Glass è un ristorante completamente diverso rispetto ai ristoranti che lo circondano a Trastevere. Ma quante volte gli uomini della Michelin vengono nel locale prima di decidere? Beh, guardi, questo lo vorrei sapere pure io, perché non se n'è accorta mai? Mai. Non se n'è mai accorta, neanche un dubbio? Quando ho preso la stella no, ora ovviamente faccio un po' più di attenzione, ma loro cambiano i loro criteri e i loro sistemi molto velocemente. Sono bravi, insomma. Molto bravi. Senta, ma è una passione che ha avuto sempre, quella di cucinare? Da sempre. Sempre. Le mie memorie da bambina, ma proprio 4 anni, 3 anni, io ricordo già cucinare cucina spignattata. Sì, sì, con mio papà. Sì. Ah, suo papà? Sì, sì. Era lui che si occupava della cucina? Beh, no, tutti e due si occupavano della cucina, però le mie memorie sono legate alla crema pasticcera di mio padre, al caramello con le mandorle, insomma, con lui mio faceva padre. I dolci? Sì, sì. È golosa lei? Sì, molto. Tanto. Senta, Cristina Bowerman, lei è pugliese, insomma. A un certo punto però è partita e se n'è andata a San Francisco, perché? Dicono che sia colpa di mia madre, nel senso che mia madre e mio padre... No, assolutamente, anzi, esattamente il contrario. Cioè, mi ha sempre insegnato a voler di più, il mondo. Voler viaggiare, voler vedere altre cose. E cosa è andata a fare lei? Io appunto ero laureata in giurisprudenza e lavoravo in uno studio legale. Sono andata per un master all'Università di San Francisco e poi in realtà ci sono rimasta. E come si manteneva? Ho fatto tutto quello che capitava a tiro. Ma stava nello studio legale e intanto faceva da mangiare? No, andavo all'università e poi nello stesso tempo ho lavorato Fresh Choice, come da cassiera a preparare le insalate, ho fatto la cameriera, ho preparato cappuccini, sempre comunque molto ruotava intorno al mondo della ristorazione. Vabbè, bisogna fare tutto, eh? Assolutamente. E quindi insomma c'è stata una svolta americana nella sua vita? Sì. Che sì. L'ha segnata proprio? Io dico sempre che sono cresciuta come professionista e come come persona negli Stati Uniti, quindi mi sento moltissimo americana. Ma quanti anni aveva quando è andata? Beh, avevo 27 anni, sì. Senta, lei dice, in America puoi pensare alla carriera, lo scrive nel suo libro, come un fatto temporaneo e cambiarla senza rimpianti per non averci provato. Sì. A lei però non è andata così. No, è vero. Io penso veramente che questo mi abbia segnato, cioè quel tipo di mentalità per cui la carriera si evolve con la persona stessa. Quindi magari una persona può avere la stessa carriera per tutta la vita, oppure può cambiarla a seconda delle passioni dell'età. Signora Bowerman, lei però poi a un certo punto ha scelto di tornare in Italia. Sì, sì. Perché? Mi sono trovata, è stato come sempre, io dico sempre che i treni passano davanti a noi, quindi bisogna salirci sopra quando e che capita. Treno è passato lì? È passato il treno di tutto, è passato il treno della carriera, è passato il treno dell'amore, è passato il treno della... Sì, e ovviamente quella poi rimane. Alla fine rimanere. Quello che ha vinto è stato il treno dell'amore? Ma è stato tutti e due, è iniziato prima quello della carriera e poi successivamente quello dell'amore. Sullo stesso vagone c'era. Esatto. Senta, però lei dice... mi rendo conto che per una donna in cucina, ma non solo in cucina naturalmente, è molto più difficile essere presa sul serio. A lei dove è capitato di non essere presa sul serio? Ma capita molto spesso di non essere presa sul serio, ma capita molto spesso di dire delle cose, di essere fraintesa oppure non essere proprio ascoltata, ma anche probabilmente il tono di voce. È la volta che l'ha fatto peggio dentro? Mi ha fatto arrabbiare tantissimo quando praticamente io continuo a parlare dando degli ordini e invece la persona responsabile davanti continua a parlare al mio assistente pensando che lui sia lo chef. Quello mi fa veramente non la guarda in faccia, sì. E quando ha pensato io invece ce la faccio lo stesso? Oddio, questo io lo penso spesso, anche se poi alla fine i dubbi ci sono, però io in realtà mi prefigo molte volte dei gol molto difficili. I dubbi fanno bene, fanno crescere e poi rendono più umili. Signora Bowerman, chi l'ha aiutata? Tutti. Tutti e nessuno. Tutti e nessuno, troppo. Allora, io direi... maestro, un modello. Beh, il mio maestro in assoluto si chiama David Bull ed è lo chef più importante con cui ho lavorato. E mi ha veramente insegnato in Austin, la capitale del Texas. E lui è un allievo di Keller. Mi ha insegnato veramente... A fare cosa soprattutto? Avere un atteggiamento zen nei confronti del caos più totale. Ricordo una volta mi ha sussurrato nell'orecchio: potresti andare a prendere delle foglie di sedano che sono finite? Mi sono girata e c'era... un macello incredibile. Ho detto, io voglio essere come lui. Lei si chiama Cristina Bowerman, ma il suo vero nome però qual è? Vitulli. E perché ha tenuto questo? Perché negli Stati Uniti quando ci si sposa si prende il cognome del marito generalmente. Tutti i miei documenti, inclusa la carta verde fatta con Bowerman, vado d'accordo con il mio ex marito. Quando ho divorziato non volevo essere additata, oppure c'è il racial profiling negli Stati Uniti, che uno voglia negarlo è impossibile. E quindi non volevo essere scambiata onestamente per una messicana che aveva varcato la frontiera due giorni prima. Per trovare un marito? O per qualsiasi altra ragione. Senta, ma è il suo compagno attuale d'accordo? Non gli importa niente? No, il mio compagno attuale è sicurissimo di se stesso, quindi proprio, anzi, non vede l'ora di conoscere il mio ex marito, per cui... Ancora non si conoscono? No, ancora si conoscono soltanto via traverse, ma si incontreranno un giorno. Lontani? No. Preferisce? Senta, ma come l'ha conquistata il suo maestro? Com'è che l'ha conquistata? Con appunto questa grande... Questo atteggiamento zen nei confronti di tutto. Sì, molto. Lui ha sempre sostenuto, è meglio prevenire i fuochi che spegnerli. E questa è una grande lezione, per cui praticamente prima del servizio ha sempre organizzato tutte le possibili varianti. E questo secondo me è un grande insegnamento. E qual è il fuoco, l'ultimo fuoco che lei ha prevenuto? Oddio, ieri sera? Ieri sera? Sì. Senta, oggi gli chef sono delle star, però sono quasi tutti uomini, perché? Perché? Perché la maggior parte delle persone che vedono la televisione è probabilmente donna, quindi ovviamente c'è diciamo una maggiore come posso dire, comunità femminile, e quindi chiaramente vede gli uomini molto più in maniera diversa rispetto alle donne. Cioè preferiscono vedere degli uomini che delle donne? Diciamoci la verità, lo sostengo, c'è un certo sexual appeal da parte degli chef uomini e ovviamente hanno più presa sulla... Però in cucina hanno sempre comandato le donne, allora cosa è capitato? Diventa differente, cioè nel momento in cui diventa una professione, nel momento in cui c'è autorità, e allora si sdoppia. Io sono stata ad un convegno che si chiama Parabere Forum, tutto al femminile, e le statistiche sono veramente spaventose, cioè? Si dice che ci vorranno ancora 80 anni perché si raggiunga la parità, sì, infatti si dice che quando l'uomo dice delle cose e allora asserisce qualcosa è autorità, quando la donna dice esattamente le stesse cose o soltanto donne comandano loro? Io sono d'accordo con lei. Non sono d'accordo. Signora Bowerman, lei scrive che le donne devono avere il coraggio di esprimersi ad alta voce, esprimere i loro desideri, ma lei quando è che non l'ha fatto e si è pentita? Quando ero piccola e ancora immatura. Dopo ha urlato da mattina alla sera. Non ho problemi. Senta, nella sua carriera quando c'è stata la svolta? Io direi sicuramente quando c'è stato l'annuncio della stella Michelin, ma se facendo un attimo un passo prima, avere la volontà e la certezza di voler perseguire le proprie passioni. Il giorno in cui mi sono alzata e ho detto io voglio fare scegliere quello che mi piace. Scegliere la propria passione sperare poi di avere abbastanza successo. Energia per farlo, certo. Lei perché si definisce controcorrente? Perché iniziando dai capelli rosa, no, scherzo. Ah, c'ha dei capelli rosi bellissimi. No, io normale che magari non la pigliano tanto sul serio subito, no? Bisogna sentirla parlare, mangiare quello. Sì, sentire quello che prepara da mangiare. Sì, però diciamo che per me è importante riuscire a vedere quello che, cioè non seguire la moda. Allora ogni qualvolta avere un suo stile proprio. Cercare di creare uno stile che sia del tutto ma mio. Ma cosa le piace di più cucinare? Vegetali sicuramente, ma mi piace un po' tutto, ma quello che mi piace è la contaminazione, cioè mi piace contaminare le culture, perché per me la cucina è cultura, conseguentemente certo. Diciamo che uno o una persona anche che sesso la cucina? Assolutamente sì, ci mancherebbe, è una delle componenti. Signora Bowerman, senta, ma c'è una ricetta che ama di più in particolare? La ricetta mia del cuore, ovviamente, quella legata, quella lì è quella di mia nonna. Mi dica qual è. Mia nonna è morta 3 mesi e mezzo fa, soltanto, ho 96 anni e fino a un anno fa faceva ancora i cavatelli in casa, per cui incredibile. Con lei pasta e piselli. Lei mi chiamava la mattina e mi diceva sto sbucciando i piselli. Cioè la figlia a forza di contaminare è arrivata a pasta e piselli. Pasta e piselli. È tornata a casa, insomma. Assolutamente. Ecco. Sono e quindi è quello, il piatto che questo che è un po' simbolo della sua vita è anche quello che preferisce mangiare oppure no? No, in realtà io non ho un piatto preferito da mangiare perché assaggio di tutto. Assaggio di tutto, sì. Infatti è un pro e contro. Però quando vado fuori mi piace totalmente distaccarmi il lavoro, infatti io sono... Le piace andare al ristorante? Tanto. Molto. Tanto, però ecco, devo proprio entrare in un mood diverso, cioè io vado per divertirmi, per stare una serata tranquilla, rilassata, non lavoro. Viene distinto di criticare cos'era oppure piuttosto di apprezzare? Rivelo un segreto, almeno per come la vedo io. Noi siamo molto più indulgenti del normale cliente. Assolutamente. Sapete la fatica che c'è dietro. Esatto. Senta, ma ci andrebbe mai alla prova del cuoco? No. Perché? Perché diciamo che a me piacciono tutti i programmi che sono dedicati ai professionisti. Piace, eh? Beh, ci sono stata una volta come ospite, sì. Quindi come ospite è differente, però come concorrente no. Io preferisco appartenere alla schiera dei professionisti, non ancora diciamo di quelli che hanno iniziato. Di quelli che? Hanno iniziato. Mix 24. Signora Bauer, ma gli show gastronomici fanno bene o no la cucina secondo lei? Perché si discute su questo? Sì, è vero, c'è una grossa diatriba. Secondo me fanno bene perché hanno allargato la base, cioè la base delle persone interessate a questo mondo e conseguentemente noi esistiamo perché quella base si è allargata, altrimenti saremmo rimasti dei cuochi, quindi manovalanza esattamente come era 50 anni, 70 anni fa. La bisnonna. Esatto. Ma per fare una grande cucina è necessaria una grande creatività, se però arriviamo a riso e bignoli e cavatelli e piselli. Ma, creatività l'avevano avuto Allora la creatività è sicuramente l'uomo una parte essenziale. Esatto, la creatività è sicuramente una parte essenziale, la manualità anche, ma tutti e due sono componenti, non sono fondamentali, né l'una può esistere senza l'altra. Quella sì. Ma lei quando è che inventa e sperimenta? Sempre. No, sempre, sì. Sempre, non ci credo. Prima di venire qui io sto preparando, sto facendo le prove Pasqua, per un po'. Cosa per no, Pasqua, per l'estate della mozzarella, un compagno mi hanno invitato e quindi sto preparando un po'. Lei si presenta col suo piatto, no? Sì, sì, diciamo che è una tecnica di cottura nuova, sto sperimentando qualcosa, vediamo tecnica come viene. Tecnica di cottura senza fuoco? Anche senza fuoco, anche potrebbe. Beh, c'è una preparazione prima perché sto facendo un seitan, quindi prima una parte senza cottura e poi la successiva con Senta, la cottura. Senta, Pasqua cosa mi consiglia di mangiare? Non lo so. Non hai idea? No. No. Sicuramente bene. L'uovo di cioccolato, questo è quello sicuro, e la colomba. Bene. Senta, ma come la nutre la sua creatività? Studio, guardo, almeno studia, una volta dove l'anno. Dove studia? Tutti i libri che... Di cucina? Sì, ma non sono ricettari. Sono, per esempio, possono essere biografie oppure libri di tecniche di cucina. Poi faccio almeno uno stage l'anno e due convegni. Me li impongo come una normalissima stagista che va... Ma servono, sì. Assolutamente sì. Il confronto... Ma l'Academy che ha frequentato, cosa ha imparato la Culinary Academy? Mi piace perché io dico sempre che sono una delle poche chef laureate in arti culinarie. Ho fatto tutto, da psicologia, public speaking, chimica, mi viene da tradurre dall'inglese, chimica, matematica, per esempio management con il del personale, che è una cosa importantissima, perché riuscire a capire chi gestire è che sta il personale è quasi più importante del piatto. Le risorse umane, ho capito che sono la cosa più difficile dopo essere genitori. Però mi colpisce che lei, insomma, poi Cavatelli e Piselli, c'era qui Pierangelini dice gli spaghetti al pomodoro, cioè voglio dire complichiamo, ma poi torniamo al classico. Riso, olio e limone. È uno dei miei piatti preferiti, per cui... Senta, ma la disciplina di cui lei parla molto per avere successo, cosa significa in cucina disciplina? Significa che quando uno avrebbe tanta voglia di rimanere a letto a dormire, invece si deve alzare, deve fare proprio certo. Dovere, questo sicuramente. Ma poi l'organizzazione. È un'organizzazione militare in cucina? Sì, assolutamente. C'è sempre, io penso sempre che regola la comunicazione... e creatività devono andare insieme. Io vado d'accordissimo con i miei ragazzi, scherzo, rido, però loro sanno che c'è un limite, questo limite è l'autorità, per cui... Comanda lei. Sì. Sì, quindi mangia, ha detto, vive di assaggini, prova questo, prova quello, insomma. Infatti il riflusso gastrico batte sempre alle porte. È per quello che ogni tanto va al ristorante per mangiare bene. Vero. Senta, lei scrive che in America ha imparato il motto "sii pronta a fare quello di cui parli", cioè cosa vuol dire? Significa che molte volte diciamo le promesse possono essere soltanto promesse. Allora, put your mouth where your money is è una dei detti della serie. Se tu dici veramente che sei in grado di fare questo, lo devi dimostrare, quindi io cerco di dimostrarlo senza parlare troppo. Dire e fare, detto fatto, insomma. Signora Bowerman, lei dice che il suo mito è Tiger Woods, grande campione di golf, per chi non lo sa. Ecco, perché il suo mito gioca a golf lei? Ho provato a giocare a golf. E perché il suo mito frana. Tiger Woods? Perché è stato uno delle persone che ho notato, ha preso praticamente il golf, non nella maniera tradizionale, ecco perché è andato controcorrente. Cioè lui ha approcciato il golf in maniera totalmente diversa rispetto agli altri. Lui ha iniziato a fare palestra, sport che non erano legati apparentemente ma non soltanto la dieta, tutto. È arrivato praticamente a vincere il campionato in una forma fisica perfetta, quindi tutti gli altri golfisti a quel punto si sono, è come se si fossero svegliati, aperto ha ragione. Sì. È come quando si è cominciato a saltare girandosi alla Fosbury, cioè è cambiato tutto. Senta, ma qui noi abbiamo una cucina, una storia, una cucina fantastica, una tradizione, abbiamo detto, poi sushi, tutto questo tipo di cucina piano piano diventa di moda eccetera, lei come la vede? Allora, io, come insomma ho già accennato, a me piace molto che la cucina sia un'espressione, cioè ritengo che la cucina sia un'espressione culturale. Ritengo che la tradizione vada preservata, ma non può essere sotto una campana di vetro. Noi viviamo in un mondo che viaggia alla velocità della luce. E quindi contaminiamoci pure col sushi. Assolutamente ma la tradizione italiana deve essere preservata, cioè nel senso che i detentori della tradizione devono, non soltanto dovrebbero scriverlo in maniera tale che rimanga lì, ma deve essere insegnato. Ecco, cioè nelle scuole di cucina non si può insegnare la contaminazione, anche perché la contaminazione è un fatto personale, i livelli di contaminazione non c'è ma dubbio. La tradizione deve rimanere. Senta, signora Bauer, ma lei ha un figlio, no? Sì. Quanti anni? 7. Cucina con lei, fai dolce? Sì, spesso e volentieri lo fa. Sta imparando a fare dolce oppure lui piace fare i primi? No, fare tutti e due di lievità. Tutti lui due, sì, eh? Fa delle cose assurde, mette tutto insieme e butta dentro il forno. Sì, però si diverte, insomma. Tantissimo. Un buon erede, sta cucina... preparando l'erede? Sì, ma io spero di no. Ma io penso che la cucina perché unisca. Cosa vorrebbe che facesse suo figlio? Io vorrei che facesse, allora, io vorrei che facesse quello che vuole, e questa bene, è la premessa generale. Ma poi, detto quello? Io vorrei che facesse un lavoro che sia legato al mio, ma non il mio. Perché manager, confrontarsi... Vuol fare il finanziere della cucina. Import-export i vini, per esempio. Cioè, nel senso, un lavoro di cui potrebbe avvantaggiarsi delle riconoscenze, della conoscenza di questo mondo, ma che non sia in diretto confronto con me o con il mio compagno. Perché... Giusto, anche il suo compagno cucina, eh? No, lui non cucina, però comunque, che diciamo, fa, insieme. Lui gestisce tutta la parte dei ristoranti, quindi la sala... Beh, quindi lavorate insieme, insomma. Lavoriamo un compagno, insieme. Due cucine, 50 dipendenti, un figlio, come si organizza? Qual è la cosa più difficile da organizzare? La cosa più difficile tutto e soprattutto il tempo con mio figlio, quello sì. Perché quando devo rinunciare ad andare al ristorante perché c'ho qualcosa da fare, ok, ma quando devo rinunciare al tempo che passo con mio figlio, quello pesa un pochettino. Le pesa molto, si sente sì, anche perché io penso a tutti i soldi che spenderò per lo psicologo di mio figlio quando sarà grande, per cui si sente in colpa, insomma. Beh, sì, ovviamente. Senta, come sceglie i suoi collaboratori? Li scelgo in base al loro curriculum, molte volte il loro curriculum non ha nulla a che vedere, per esempio ha zero esperienza, e poi quando nel colloquio, durante il colloquio, ecco, se c'è qualcosa che mi... Che cosa la convince di più di un approccio immediato? Sveltezza. Insomma, mi assumerebbe in cucina. Eh? Assolutamente, sì, domani. Va bene. Senta, le faccio un'ultima domanda, perché alla fine Roma... Perché Roma è la capitale d'Italia, perché Roma inizialmente è stato veramente una quel fortuna. Treno là che era passato, esatto, con sopra la professione lavoro. Esatto. E poi io mi sono innamorata di Roma, di Trastevere è bellissima, veramente. E quindi questo sei prima proprio ancora. Innamorata? Sì, Trastevere. Ah, sì. E quindi Roma forever? Well, not forever. Non si può dire. We don't know. Grazie.